Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, buon inizio di settimana. Luca Tremolada al microfono, Luca Dello Iacovo con lui. Buongiorno. Allora, oggi settimana particolare. Innanzitutto un benvenuto al nuovo sito del sole24ore.com. Bellissimo, in nero. Ti è piaciuto? Sì, ieri siamo andati a vederlo, anzi è stato bello e interessante. Poi c'è anche la parte dei social network che ci voleva. Mentre oggi un'altra notizia: Barack Obama ha dato 45 giorni, non oggi, ma insomma ha dato questa scadenza alla pubblica amministrazione per portare online tutti i loro dati. Quasi un ultimatum. Vedremo se ce l'ha fatto, ma vedremo anche soprattutto perché. Ma prima le news. Retromarcia di Facebook sulla privacy degli utenti. Il social network ha annunciato che presto saranno disponibili impostazioni più semplici per gestire i dati personali. La decisione arriva dopo settimane di polemiche per la scelta di ampliare il perimetro delle informazioni disponibili online. Facebook aiuterà anche gli utenti a controllare l'accesso al profilo di videogiochi e applicazioni di terze parti. Via libera all'acquisto di AdiMob per Google. L'antitrust degli Stati Uniti promuove l'accordo. La piattaforma pubblicitaria per la telefonia mobile finirà sotto l'ombrello del motore di ricerca. Era stata comprata per 750 milioni di dollari. È un altro tassello nel progetto di Google per l'espansione su Internet. Ma Big G ha dovuto digerire un boccone amaro. Le vendite online del suo cellulare Nexus One non sono decollate ed è stato ritirato dal mercato. Passiamo alle scienze. Pesca a rischio nei prossimi 40 anni. Le Nazioni Unite puntano il dito contro gli eccessi di sfruttamento dei mari. Secondo l'ONU, sono 35 milioni le persone impegnate nell'industria ittica. La ricerca è stata presentata a New York. L'obiettivo degli scienziati è di sviluppare tecniche sostenibili per i pescatori. Rieccoci in trasmissione, 16.35, noi siamo in collegamento con Gianluigi Cogo, innovatore della PIA e anche organizzatore del primo bar camp dedicato alla pubblica amministrazione all'interno del forum PIA che si è appena concluso da poco. Buongiorno Cogo. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto spieghiamo che cos'è un bar camp dedicato alla pubblica amministrazione, perché insomma è la prima volta che si fa una cosa di questo tipo e ci sarà un motivo. Sì, il motivo c'è, è particolarmente diciamo importante quest'anno, che è un momento di crisi visibile da parte di tutti, dove non è che si possono fare tanti investimenti per la pubblica amministrazione. Il bar camp è un momento nel quale la creatività, il talento, la voglia di fare dal basso di tutti quelli che si occupano di pubblica amministrazione viene messa assieme in una giornata nella quale praticamente si presentano idee nuove. E devo dirti la verità che già l'anno scorso abbiamo fatto un timido tentativo, ma eravamo visti un po' come, sai, gli animali del circo, venivano a vedere queste strane persone. Poi noi abbiamo anche un social network, è una cosa terribile per la pubblica amministrazione, no? Trovarsi su questi palinsesti. Ma è stato proprio sorpreso dal bar camp e dall'arrivo degli innovatori? Cioè, c'è qualcosa che l'ha meravigliata? Le meraviglie non sono tanto note, le meraviglie sono da parte di quelli incravattati che sono venuti a vedere se c'era qualche idea buona, visto che soldi non ne avevano e hanno capito perfettamente che si poteva fare qualcosa di innovativo anche sfruttando solo le idee e il talento e non solo gli investimenti. Per esempio? Quindi, facciamo qualche esempio per capire insomma cosa è successo, che cosa ha visto anche di interessante. Allora, sostanzialmente quest'anno uno degli slogan era Innovation Without Permission, che al di là dello slogan ha voluto praticamente prendere ed estendere uno dei pensieri che sono di Obama sull'open government e del suo CEO Kundra, che praticamente dicono se noi dobbiamo servire i cittadini, dobbiamo spostarsi verso i cittadini, dobbiamo andare noi dove i cittadini sono e portargli i servizi. I cittadini stanno già sui social network, sui social media, quindi costruire applicazioni smart, semplici, che non siano applicazioni industriali e posizionarli là dove i cittadini già ci sono e già dove loro le frequentano. Questa è un po' una cosa strana per la pubblica amministrazione italiana, che è ingessata, è ancora molto piegata sulle logiche industriali, no? Abbiamo portato molti esempi di dati liberati, te ne faccio uno molto semplice. se tu guardi l'azienda, l'ATAC di Roma ad esempio, no? Stavo guardando proprio la settimana scorsa, l'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma, i trasporti, esatto, quella dei trasporti pubblici di Roma, presenta molti dati pubblici sul sito web, però tu con un telefonino non puoi farci niente perché non c'è un'applicazione per palmare, eccetera. Allora il concetto, anche questo è un concetto filosofico, però già un'azione concreta, di civic hacking vuol dire prendiamo i dati, li riportiamo grezzi, cioè li catturiamo dal web, ci sono tecniche per farlo. Quali tipi di dati avete in mente? Così per dare anche un'idea di quale può essere l'applicazione. Allora, tutti i dati della pubblica amministrazione sono dati con i quali tu puoi fare tante applicazioni. Se ad esempio tu pensi proprio agli orari di trasporto, se il sito dell'ATAC va giù, dov'è che tu vai a vedere i dati del trasporto? Non certo sul tuo iPhone piuttosto che sul tuo BlackBerry. Se invece tu ce li hai con un widget, te li puoi mettere sul tuo computer, addirittura sulla tua... Sono portabili, diciamo, diventano, esatto, portabili. Esatto. Quindi questo, Dimmi. No, quindi questa era un'idea, quindi portare i dati del traffico degli autobus su poi telefonino. Certo, questa qua è un'operazione che possono fare i privati o anche il pubblico, se ha a disposizione questi dati gratuitamente e liberamente. Ed è, se non ho capito male, un po' quello che vorrebbe Obama. È quello che vuole Obama, difatti Obama, oltre all'ultimatum che tu hai citato in apertura, ha messo in piedi anche un sistema di contest, quindi di concorsi, c'è ad esempio il famosissimo Apps for Democracy, che incentiva proprio le piccole aziende, le piccole start-up, attraverso i dati pubblici, a fare delle applicazioni molto più creative, anche diciamo con un certo appeal che non è certo quello della pubblica amministrazione, e quindi a mettersi in concorrenza fra loro. E questa cosa funziona, ci sono applicazioni di tutti i tipi, contro la criminalità, per i trasporti, come... Prima di vederle un attimino più nel dettaglio e anche per provare a diffondere qualche idea without permission, sentiamo la scheda di Luca Dello Iacovo che ci spiega un po' cosa sta cercando di fare il Presidente degli Stati Uniti. Trasparenza, partecipazione, collaborazione. L'accesso ai dati attraverso Internet aiuta la politica. È un cambiamento lanciato dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. A pochi mesi dal suo insediamento ha rivoluzionato il sito web della Casa Bianca, ma i primi segnali evidenti della trasformazione sono arrivati con il lancio di spazi online per monitorare la pubblica amministrazione. Una lente di ingrandimento nelle mani degli elettori, come il sito recovery.gov, permette di vedere la destinazione degli interventi per sostenere l'economia nazionale. La svolta poi è arrivata con la direttiva Open Government. Ogni istituzione deve proattivamente pubblicare le informazioni su Internet, senza aspettare le richieste dei cittadini. È una scelta accolta dagli applausi delle organizzazioni impegnate per la credibilità delle istituzioni. Il modello degli Stati Uniti ha fatto breccia anche in Gran Bretagna e diventa sempre più importante nell'agenda delle altre nazioni europee. Allora, giustamente Luca Dello Iacovo ha parlato di modello. Gianluigi Cogo, come sta andando questo esperimento? Ci sono degli esempi? Ci sono delle cose che sono nate? Ma purtroppo in Italia molto poco. No, in Italia lo vediamo tra un minuto in Italia. Restiamo sugli Stati Uniti e sull'Inghilterra. No, Stati Uniti e l'Inghilterra ovviamente sì, anche perché poi, specialmente l'Inghilterra, che in questo momento ha un passo addirittura secondo me più veloce degli Stati Uniti, grazie anche a Tim Berners-Lee, che è lui... Che ha sposato la causa degli open data. C'è quel bellissimo, per chi ha voglia di vederlo, quel bellissimo speech al TED 2009 dei mesi scorsi, che è stato veramente un'apertura pazzesca sul concetto degli open data. Ecco, se ritorniamo un attimo solo sugli Stati Uniti, c'è il caso di recovery.gov, per esempio, sì, che è una grande mappa, certo, in questo caso, dove si può vedere stato per stato quali sono le destinazioni poi dei, esatto, finanziamenti. Esatto. E quindi si clicca sul Texas e si vede poi quanti finanziamenti pubblici sono arrivati al Texas dopo il grande piano che è stato lanciato dall'amministrazione di Obama per ridare forza e slancio all'economia. L'indirizzo l'hai detto? Allora www.recovery con la Y alla fine .gov. Sì, assolutamente, questo è fantastico, anche perché il sistema del monitoraggio è il primo sistema che permette al cittadino di capire se gli sforzi della pubblica amministrazione vanno verso la sua direzione o se sono tutti interni, perché vede, al cittadino non interessa niente che la pubblica amministrazione sia ammodernita, abbia le ultime novità tecnologiche, interessa soltanto che i servizi vengano offerti a modalità che a lui è più propria, e oggi il cittadino vuole una modalità più smart, una modalità che si usa dire anche a livello filosofico, quella legata alla consumerization, cioè quello che, ecco, ma ci può mettere le mani dentro anche in questi dati un po', cioè può contribuire anche a inviare delle informazioni, può partecipare anche alla raccolta e quindi può in un certo senso entrare a far parte della trasparenza di cui poi Obama ha fatto un vessillo. Assolutamente sì, perché questa viene chiamata da loro la partecipazione a livello di mandato, che non è la partecipazione solo a livello di consenso, cioè quando uno vuole essere eletto, è mentre un amministratore governa, attraverso il contributo, il monitoraggio e la partecipazione, ecco che emerge quello spirito non solo del richiedere ma anche del dare, che è tipico dell'e-democracy dei paesi anglosassoni. Com'è che sono accolto questo, tu l'hai chiamato giustamente modello, com'è che è stato accolto a Roma al forum PA dai funzionari della pubblica amministrazione, cioè come un'idea, una provocazione, una fuga davanti? No, beh, devo dirti la verità, sono parecchio curiosi e c'è un certo appeal, vorrebbero buttarsi dentro tutti, però tu sai che la legislazione italiana è molto rigida. In effetti cosa ha fatto Obama di diverso da noi? Ha fatto una direttiva, cioè Kundra gli ha costruito una direttiva che va a interpretare delle leggi già esistenti, mentre noi andiamo a rischio che per l'ennesima volta dobbiamo fare o un decreto o una legge per poter applicare questo. Invece basterebbe applicare quelle che ci sono, che di trasparenza parlano molto. Allora, giustamente hai citato l'Italia, noi siamo in collegamento con Ernesto Belisario, giurista e informatico, lo sentiamo però solo tra un minuto per capire insomma come si può mettere le mani sulla giurisdizione, sulle leggi, sulle norme in vigore per provare a capire se possiamo provare a fare un po' come Obama. Abbiamo capito, abbiamo appreso la filosofia dell'open government, portare online tutti i dati della pubblica amministrazione, migliorare la trasparenza, insomma provare a fornire dei servizi del pubblico verso i cittadini in una forma, in una chiave che forse è più in linea con lo spirito dei tempi, mi verrebbe da dire. Oggi un progetto come quello di Obama si può applicare all'Italia? La risposta sì, la diamo telegrafica, dopodiché è chiaro che dobbiamo fare alcune precisazioni, nel senso il progetto dell'open gov, dell'open data, degli open rights, come sono stati definiti, cioè questi diritti aperti ad avere un governo trasparente, un governo collaborativo e partecipativo in cui il cittadino è visto appunto come una risorsa e non soltanto come un suddito, nasce non casualmente negli stati anglosassoni. Se voi vedete, quelli all'avanguardia sono oltre agli Stati Uniti, il Regno Unito, come diceva prima Gigi giustamente, ma anche l'Australia piuttosto che la Nuova Zelanda, cioè sono quasi tutti paesi del Commonwealth, se ci facciamo attenzione, cioè paesi, ecco, in cui... Ma cioè, da noi il punto di partenza quale può essere per lanciare quindi un appello e per coinvolgere persone poi nella partecipazione all'open data? Ora ci arrivo. Il punto di partenza è questo, dicevo, l'open gov nasce in un contesto normativo e culturale diverso, cioè noi abbiamo poca tradizione alla trasparenza, a differenza di quello che accade negli altri stati, e abbiamo un'amministrazione, lì è più smart, diceva Gigi, più leggera, noi abbiamo un'amministrazione molto burocratizzata, perché c'è bisogno di guardare le leggi, perché sono l'avvocato, no, non è soltanto perché voglio tirare acqua al mio mulino, ma perché una pubblica amministrazione non è come un'impresa. Se io sono oggi una società, posso decidere di rilasciare i dati, come è successo per esempio per il terremoto di Haiti, c'erano delle società, Haiti non era ben cartografata, delle società che avevano la cartografia di Haiti in occasione del terremoto hanno deciso di liberare i dati relativi a quelle cartografie per facilitare i soccorsi. Se io sono una società lo posso fare in modo veloce, decido la mattina e il pomeriggio quei dati sono già liberi in formato aperto e disponibili sul web. Se io sono una pubblica amministrazione, le leggi oggi non mi consentono di farlo in modo così automatico, ma hanno bisogno che io ci faccia un ragionamento. Innanzitutto c'è il problema di una scelta. Voi parlavate prima della direttiva Obama, oggi non essendoci una direttiva simile in Italia, la scelta è lasciata ad ogni singola amministrazione. La scelta di che cosa? La scelta se adottare un modello di tipo open data o meno, cioè la scelta se liberare i propri dati non c'è in un obbligo normativo. Non è obbligatorio. Mentre Obama ha detto entro 45 giorni io ho bisogno di almeno 3 datasets online, un termine 45 giorni è un termine veramente stringente, e addirittura 120 giorni per fare un piano di open gov, cioè non mi interessa soltanto, dice Obama, che voi liberiate i dati, ma voglio anche capire come volete coinvolgere il cittadino, come volete aumentare la vostra trasparenza. In Italia invece, non essendoci questo provvedimento, ci saranno, e in parte ci cominciano ad essere, le prime amministrazioni che tentano un approccio di questo tipo, ma su base volontaristica, quindi abbiamo l'amministrazione che vuole aprirsi e l'amministrazione invece che vuole rimanere chiusa, quindi forse un primo provvedimento che obbligasse, simile alla direttiva Obama, tutte le amministrazioni sarebbe più che ecco, Belisario. Quindi allo stato attuale possiamo dire che sta ai funzionari della pubblica amministrazione decidere se, perché la prima cosa da fare credo che sia anche fare un grande censimento per capire di quali dati si è in possesso, e già questo non è semplice. Hai centrato il punto, noi che di queste cose parliamo da qualche anno, io ripeto la frase per cui le amministrazioni non sanno quello che hanno nei cassetti, cioè hanno un patrimonio informativo di inestimabile valore, ma veramente inestimabile, eppure non ne sono consapevoli. E come mai non ne sono consapevoli però, secondo me? È perché per molti motivi, innanzitutto perché gran parte di questo è stato gestito con il cartaceo, quindi noi abbiamo molto materiale informativo, abbiamo molto patrimonio pubblico informativo, però lo abbiamo acquisito in cartaceo, e anche quando in digitale le amministrazioni non hanno avuto da subito consapevolezza dell'importantissimo valore di questi dati e di queste informazioni, e quindi non si sono attrezzate, perché materialmente per rendere disponibile un dato in modalità digitale significa che io lo devo acquisire, lo devo formare, lo devo conservare, devo tenerlo aggiornato, cioè non è semplice, non è soltanto qualcosa da informatici, ma è qualcosa che implica un'organizzazione abbastanza efficiente di tutto il modello, perché se l'organizzazione non è efficiente io avrò un dato che non è completo, che non è aggiornato, e quindi ecco, che non serve a nulla. Ecco Belisario, una cosa che però possiamo dire, che adesso guardo negli occhi Luca Dello Iacovo, cioè Nova Lab si pone comunque in questo momento come luogo dove se qualche funzionario intende provare a liberare i dati, verrebbe dire, e a capire anche quale può essere poi il modo di collaborare per fare in modo che questi dati noi poi siamo siano ben qui, accessibili. Insomma, noi siamo qui, raccontateci il vostro esperimento, raccontateci com'è andata, proviamo a fare un po' da acquario, da scatola di vetro per questo tipo di nuove esperienze. Scrivete a novalab24@radio24.it o scriveteci attraverso il Twitter, la pagina di Facebook, insomma siamo reperibili un po' ovunque online. Io ringrazio Ernesto Belisario e mi scuso per il tempo che già è già finito, ringrazio anche Gianluigi Cogo, l'appuntamento è per domani alle 16:30 con sostenibilità e solidarietà. Con sostenibilità e solidarietà, arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.